Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Davvero sembra una sfida agli dèi di Olimpia e dello sport la candidatura di Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, campione del mondo al pallone d'oro. Anche la storia, oltre al fatto che dovrà vedersela con due fenomeni come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sembra essere contro di lui. Solo una volta, nel 1963, infatti, un portiere, il grande sovietico Lev Yashin, si è aggiudicato il trofeo. Poi tanta Italia e qualche piazzamento sul podio. I secondi posti di Dino Zoff nel 1973, Gigi Buffon nel 2006, il terzo del cecoslovacco Viktor nel 1976 e il doppio bronzo dell'altro tedesco Kahn nel 2001 e nel 2002. E allora, possibile che dopo averne afferrati tante di cuoio, Neuer possa ora agguantare anche quel pallone tutto d'oro? Chiediamolo subito al nostro ospite, che dell'argomento se ne intende. Dino Zoff, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, un piacere. Allora, signor Zoff, nel 1973 fu secondo dietro a Johan Cruyff e davanti a Gerd Müller. Me lo ricordo anche perché arrivava subito dopo la finale di Coppa dei Campioni, ecco, certo, avevo davanti Cruyff e quindi insomma era difficile spodestarlo, ecco, però se avessimo vinto magari la Coppa dei Campioni, che abbiamo perso 1-0 con l'Ajax, qualche chance in più, però quando si ha davanti dei grandi campioni, dei fenomeni, insomma è difficile. Ma perché è così difficile per voi portieri agguantare quel pallone? Beh, sai, il portiere crea poco, insomma, in genere sono proiettato verso chi crea calcio, chi crea fenomeni, che per esempio adesso io gli faccio mille auguri a Neuer, però insomma davanti due fenomeni, quindi non è facile vincere, senza dubbio, quindi al di là della forza di Neuer, certamente. Lo vinse il grande Lev Yashin, quel pallone d'oro, finora unico vincitore coi guanti. È stato per lei motivo di ispirazione, Yashin? Beh, indubbiamente, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, è venuto alla mia festa quando ho dato l'addio al calcio, una persona straordinaria che la ricordo molto volentieri. Indubbiamente lui ha messo veramente il portiere in prima fila, non era mai stato. Ecco. Tra l'altro, lei e Yashin eravate abbastanza simili tra i pali, amavate entrambi la concretezza più che la spettacolarità, vero? Beh, ma sai, il portiere deve viaggiare sulla sostanza, perché altrimenti se prendi gol hai voglia di fare un bel volo, insomma l'importante è prenderla con le dovute canoni della semplicità per sbagliare di meno. Ha ragione. Allora, signor Zofferi, viviamola insieme la leggenda di Lev Yashin. È stato forse il più grande portiere della storia del calcio, ma in pochi sanno che in gioventù Lev Yashin, prima di diventare estremo difensore della Dinamo Mosca, subì il fascino di un altro sport, forse ancora più popolare in Unione Sovietica, come sottolinea il professor Mario Alessandro Curletto, coautore del libro Yashin, vita di un portiere. Entra nella Dinamo e ne diventerà il simbolo. Avrà fortuna prima nell'hockey che nel calcio, ma messo di fronte alla possibilità di scegliere, sceglierà il calcio, che era la via al momento più rischiosa, perché era ancora terzo portiere della Dinamo ed è già convocato in nazionale nella Dinamo di hockey. La scelta di Yashin si rivelerà azzeccata ed è proprio la nazionale a consacrarlo mito anche a livello internazionale. Primo grande successo, l'oro olimpico ai giochi di Melbourne 1956 contro la Jugoslavia. Quella squadra era formata soprattutto dall'ossatura dello Spartak, però con Yashin in porta e Strelcov come centravanti giovanissimo. E fu una vittoria sicuramente meritata e anche abbastanza annunciata, perché la nazionale sovietica a quell'epoca era molto forte, tant'è che poi avrebbe vinto anche la prima edizione degli europei. È infatti il 1960 quando a Parigi i sovietici superano in finale per 2-1 ancora la Jugoslavia, conquistando così la prima edizione dei campionati europei. Un successo che il grande portiere descrive così nelle sue memorie, ci racconta ancora Curletto. Con lo stupore un po' straniato del sovietico che si trova, diciamo, nel vortice della fama occidentale, ricorda lì il trionfo, lo stadio, il Parco dei Principi, c'è sempre quella meraviglia che pervade sempre, mi sembra, le sue memorie ogni volta che racconta di un successo all'estero. Ma sarà un altro e sulla carta meno importante successo a dare a Yashin la spinta decisiva per la conquista del pallone d'oro 1963. A celebration at Wembley of the 100th anniversary of the Football Association. The centenary is marked by the match of the century, England versus the rest of the world. The veteran Lev Yashin of Russia will keep goal in the opening period. È il 23 ottobre 1963 quando a Wembley l'Inghilterra sfida una selezione del resto del mondo in amichevole per celebrare i 100 anni della Federcalcio inglese. Yashin nel primo tempo difende la porta di una squadra stellare guidata da Alfredo Di Stefano e dal portoghese Eusebio. Vincono gli inglesi per 2-1, ma nei primi 45 minuti Yashin, prima di lasciare il campo sostituito dallo jugoslavo Soskic, resta imbattuto e strega gli attaccanti avversari. The rest soon experience England on the warpath, but Yashin saves. Back come England and it's Jimmy Greaves testing Yashin again. I 100.000 di Wembley sono ai piedi del grande portiere. Il premio per Yashin? Più che i suoi dirigenti ci penseranno quei grandi campioni, come ricorda ancora Curletto. La Federazione Sovietica incassa, diciamo, il suo cachet, non gli lascia nemmeno il necessario per comprare qualche regalo agli amici, tant'è che gli occasionali compagni fanno una specie di colletta sui generi, gli devolvono le cravatte che sono state regalate loro per l'occasione, gliele presenta Schnellinger e con queste 15 cravatte, diciamo, Yashin se la cava, le regala ai compagni di squadra della Dinamo. Le parate di Wembley saranno decisive per la conquista del pallone d'oro, ancor più di qualsiasi pressione diplomatica. Da un anno Yashin praticamente era caduto in una gravissima disgrazia, era stato accusato di aver causato l'eliminazione, la sconfitta contro il Cile dell'Unione Sovietica ai mondiali, era un anno che non giocava nella Dinamo Mosca perché i suoi tifosi, specialmente quelli moscoviti, lo fischiavano e aveva anche pensato di abbandonare il calcio, tant'è che si allenava regolarmente, poi la domenica andava a pescare. E aveva assolutamente bisogno di una riabilitazione, e questa riabilitazione gli è venuta dall'estero. E poi da lì la macchina delle pubbliche relazioni sovietiche lo ha riscoperto come ambasciatore del calcio sovietico e anche dell'Unione Sovietica in Occidente, ma era stata un'operazione nata per caso e in Occidente con questo pallone d'oro. Rari ma significativi per Yashin gli incroci col calcio italiano. Quando Yashin è sbilanciato para per combinazione il suo tiro, a Domenghini viene quasi da piangere. È giovane, Yashin potrebbe essere suo padre. Si danno tutti da fare, ma Yashin ha calato sulla porta il sipario di ferro. È il 10 novembre, sempre del 1963, quando all'Olimpico di Roma l'Unione Sovietica elimina l'Italia di Edmondo Fabbri dalla corsa agli europei. Sconfitti a Mosca per 2-0, gli azzurri non vanno oltre l'1-1. E Yashin strega dal dischetto anche Sandro Mazzola. Sandrino Mazzola ha tirato il rigore come non lo tirano nemmeno i ragazzi che giocano nei vicoli con la palla di straccio. Yashin, che è un veterano, non vuole congratulazioni. Pure quel rigore parato spingerà l'Unione Sovietica verso un'altra finale europea. Stavolta però a Madrid Yashin e compagni si arrenderanno alla Spagna di Luisito Suarez per 2-1. E sul gol decisivo di Marcelino, il portierone forse non è esente da colpe, anche se Suarez lo difende. Era un ragazzo che di testa era molto bravo e l'ha girata molto bene in rete, sì. Era fra l'area del portiere e l'altra più o meno all'altezza del rigore. Penso che non poteva fare tanto, perché nei colpi di testa finché non parte la palla, non sai, un portiere non sa bene dove va. Penso che abbia fatto un gol in acrobazia molto bello. Anche un altro grande di quell'Inter, Mario Corso, incrocerà Yashin vestendo la maglia azzurra. Avevo un carisma incredibile, diciamo nel confronto soprattutto della sua squadra, dei suoi giocatori, comandava la difesa in modo perfetto. Direi che era veramente il Pelé dei portieri. Di quella gara giocata il 1° novembre del 1966 a Milano, ancora oggi Corso conserva la gioia della vittoria. 1-0 per l'Italia a rete di Guarneri e una foto indimenticabile proprio con Yashin. Io c'ho in casa, fra i miei ricordi, una fotografia con lui veramente bellissima che mi tengo con molta cura. Fine partita, che siamo abbracciati, e lui questo imponente con la fascia capitano, con tutta la maglia che allora si usava, le maglie di portiere a tenere, basta. È stata anche quella la sensazione averlo vicino. Appesi i guanti al chiodo nel 1971, Lev Yashin continuò a vivere di calcio e del suo mito. Malinconica, ma piena di dignità alla fine, segnata prima dall'amputazione di una gamba, poi da un cancro che le ucciderà a Mosca il 20 marzo del 1990, ad appena 60 anni. Uscito dalla storia, Yashin entrava così nella leggenda. Dino Zoff, abbiamo rivissuto insieme la leggenda di Lev Yashin. Le faccio un'ultima domanda. Vista proprio la difficoltà storica che voi portiere avete nell'agguantare quel pallone d'oro, non sarebbe forse il caso di istituirne uno ad hoc proprio per voi, che in fondo siete l'eccezione e la peculiarità del gioco del calcio? Ma no, io non sono dell'idea, perché poi dopo va a finire che si inflaziona tutto, poi diventa... Il pallone d'oro del difensore, del centrocampista offensivo, dell'attaccante, del goleador. No, i premi vanno bene quando sono pochi, se no vediamo il pugilato da adesso che hanno aumentato le associazioni e mancano pugili, ecco. Quindi no, va bene, i premi devono essere importanti. Ecco, meglio sudarseli, meglio una parata in più allora. Appunto. Dino Zoff, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, saluto, arrivederci. Grazie ancora a Dino Zoff. Ora una breve pausa, poi a Olimpia parleremo proprio di pugilato. Olimpia, miti e verità dello sport. Sì, dai, ascolta il maestro. Sì, Mölles. E via, Seferi, e via! Muove, scusa lei che spetti, la carrozza, su! De dove si via? Lucania, non la strova sta Lucania. È lontano. E vieni chi fa la box? E perché no? Magari. È dura fa la box, eh? Beh, noi ci proviamo, no? Scene dal capolavoro di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli. Il maestro del cinema italiano ambientò il film con Alain Delon e Claudia Cardinale proprio nel mondo del pugilato milanese. E una di quelle palestre ring set ha riaperto proprio in questi giorni battenti al pugilato. Si tratta dello storico Teatro Principe in Viale Bligny, dove tra il 1949 e i primi anni 60 combatterono tutti gli assi della box italiana di allora. Ora il Principe è tornato a nuova gloria pugilistica con il campionato italiano dei pesi welter tra Moscatiello e Pintaudi e si ripropone anche come spazio espositivo per mostre e convegni. Insomma, un'area recuperata alla box e non solo. Una buona notizia che di certo fa contento il nostro ospite, il campione olimpico e mondiale dei super massimi tra i dilettanti, Roberto Cammarelle. Benvenuto Roberto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera a tutti quanti. Roberto, da Lombardo di Cinisello Balsamo, raccontaci un po' i tuoi inizi pugilistici tra Milano e dintorni. Ma io ho iniziato a Cinisello Balsamo, nella palestra del paese, la Rocky Marciano, perché volevo dimagrire. Amico di famiglia era l'allenatore Biagio Pierdi, che ha detto venite, perché ho cominciato con mio fratello e vi muovete un po', così almeno non sono dimagrito, ma ho imparato a fare pugilato. La tua palestra preferita a Milano qual è? Milano e la Lombardia, soprattutto i primi anni della mia carriera, l'ho tra virgolette diciamo provata tutte le palestre, perché avevo bisogno di sparring e i pesi grossi erano veramente rari. A me piaceva allenarmi nella palestra Doria, proprio vicino al centro, perché era la palestra di Giacobbe Fragomeni, il mio mito. Grande soddisfazione, credo, nel rivedere la box e tornare protagonista al Teatro Principe. Ma per me è una splendida notizia. Milano negli anni 60 era la capitale europea del pugilato, quindi noi dobbiamo, non dico tornare perché è impensabile, ma avvicinarci a quel periodo, ma soprattutto avvicinare la gente. Noi abbiamo bisogno di posti belli per poter affascinare, perché lo spettacolo è sul ring, ma spesso va aiutato, e quindi benvenga questa riapertura, ne sono entusiasta. Proviamo allora a riviverla insieme, Roberto, l'atmosfera che regnava in quegli anni intorno al ring del Teatro Principe. Box a Milano, Ignis, Olimpia, Cinzano, sangue dal sopracciglio, lampo fotografo abbaglio. La capitale italiana della box, questo era Milano soprattutto negli anni 50, prima che le Olimpiadi romane del 60 non lanciassero anche la città eterna come punto di riferimento per il nostro pugilato. Rocky Giuliano, decano dei giornalisti italiani di box, ci aiuta a capire cosa voleva dire il Teatro Principe per la box milanese di allora. È stato per oltre un ventennio il riferimento del pugilato lombardo in particolare, ed era il primo gradino per arrivare poi ai ring più importanti, quelli del Palazzetto Sport, del Vigorelli. Sono passati di tutti i campioni, da Loi a Mitri, non ci è passato minuti perché è arrivato più tardi, ma tutti gli altri, Formenti, Giannelli, Zudas, Rollo, cioè praticamente hanno iniziato la loro storia pugilistica su ring, che aveva una conformazione particolare, perché era nato inizialmente come teatro di varietà, eccetera, e poi era diventato riferimento del pugilato lombardo. Magica e affascinante l'atmosfera intorno a quel ring dove si intrecciavano pugni e destini. Un teatro, diciamo, grande, che aveva la possibilità di poter tenere almeno 1500 persone, quindi era abbastanza ampio. No, l'atmosfera era sicuramente un'atmosfera calda. Tieni presente di un fatto: a quel tempo si fumava, per cui praticamente il ring spesso era avvolto da una cortina che sfumava tra l'azzurro e il bianco, no? E poi, diciamo pure, si scommetteva. Ci fu un episodio fra i tanti, in particolare ci fu un titolo di colore tra Fugaro e Malè. Il primo era di Buster Sizio, l'altro era un romano, e siccome uno di questi scommettitori si era fidato di questi esperti, e aveva perso a quel tempo tipo 100.000 lire. E quando finito il match, che perse la scommessa, aveva un bastone in mano e si aggirava in mezzo agli spettatori cercando questo qui che l'aveva consigliato, non certo in modo amichevole. Pugni d'eccezione a Milano. Per l'ultima riunione della stagione invernale, 15.000 persone affollano il Palazzo dello Sport attratte da un programma formidabile. Lo hanno realizzato Strumolo e Cavassi, finalmente uniti sotto la stessa bandiera nel superiore interesse della boxe italiana. E così una stagione ricca di avvenimenti memorabili si conclude degnamente con l'incontro più atteso di tutta l'annata, Loi Famchon. Il principe, certo, ma la Milano del pugilato in quegli anni aveva 1000 centri di attrazione e di interesse, come ci racconta Gino Cervi, coautore del volume Milano nello sport, edito da Epli. Per tanti anni Milano è stata un po' una capitale del pugilato nazionale, anche con un certo rilievo internazionale, ed era una vera e propria disseminazione di luoghi che andavano dai teatri, dagli stadi stessi, la stessa arena, il velodromo Vigorelli, senza poi contare le sale in cui si faceva anche l'allenamento, quindi le sale storiche legate alle società pugilistiche. Erano tante bandierine puntate nella città di luoghi più o meno famosi, appunto da San Siro, che negli anni 60 si riempiva di 80.000 persone per assistere ai match di Duilio Loi, di Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti, la stessa arena che negli anni 20 ospitava ha ospitato numerosi incontri di pugilato di una stagione particolarmente intensa, di quegli anni ruggenti del pugilato italiano, per arrivare appunto anche al Vigorelli, uno scenario consueto che anche lì ha visto le imprese di Loi e di altri campioni. Ora si riparte tra memoria del passato e uno sguardo a un futuro che può regalare nuove soddisfazioni. Rocky Giuliano ci crede. Tutto sommato, forse il periodo più buio è stato superato. Questa idea del principe è una bellissima idea, tra l'altro dovuta all'ultimo dei Cherchi, Alessandro Cherchi, che ha 29 anni, quindi uno molto giovane, il quale sta facendo delle cose buone, ha delle idee, anche questa qui del principe è valida, perché poi ci sarà solo pugilato, nel senso classico, diventerà anche una sala eventualmente per i convegni, ci sarà spazio anche per i dilettanti. Diciamo che la carne al fuoco c'è e l'impegno, a mio giudizio, è anche serio. Roberto Cammarelli, allora abbiamo rivissuto l'epopea del Teatro Principe, a cui auguriamo le più grandi soddisfazioni future. Ma a proposito di futuro, Roberto, allora cosa c'è nel tuo futuro sul ring o a bordo ring? Raccontaci un po' cosa ti aspetti dalla prossima stagione. Ho preso un anno di pausa, di riflessione per capire se posso rilanciarmi per Rio 2016, l'anno prossimo ci sono le qualificazioni olimpiche. Ancora sono combattuto, perché non è facile appendere al chiodo i guantoni, però più passa il tempo più mi sento vecchio. E le sensazioni, mi dispiace ammetterlo, non sono positive. Io sicuramente rimarrò in questo mondo, la cosa mi affascina, ma devo capire se il mio percorso per arrivare a Rio è fattibile o no, e ancora ne stiamo discutendo con i tecnici. Spero che il cuore stavolta prevalga sulla ragione, e poi saranno i pugni ad accompagnarti a quell'Olimpiade. Lo spero, l'idea è quella, che il cuore c'è. Roberto Cammarelli, grazie davvero per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. È stato un piacere, saluto tutti gli ascoltatori, seguite il pugilato, seguite la radio. Anche per l'appuntamento con Olimpia di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it e riascoltarci tramite il podcast sempre sul nostro sito web radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti!